Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non potevamo aiutarli, in nessun modo, lo sapevamo benissimo. Quattro ragazzi italiani nei Balcani non possono fare niente di più che ascoltare in silenzio. Non c'era nessun motivo per essere lì, oltre a bere una caffa in compagnia, come vecchi amici. Mi chiamo Mirko, vivo ad Helsinki, ho 36 anni, ho una bellissima compagna e un bellissimo bambino di 7 mesi. Quando sentite la parola Balcani, a che cosa pensate? Stefania, nel periodo tra il 90 e il 95 andavamo al mare a Cervia, sulla riviera Adriatica. Sentivamo partire in continuazione dalla base NATO vicina i caccia che in pochi minuti avrebbero bombardato l'altra costa. E noi, così vicini, stavamo a prenderci il sole. Ero giovane e inconsapevole, ma stavamo assistendo a una guerra dietro casa. Nicola, se sento la parola Balcani penso alla guerra, la prima che ho visto ai TG, da piccolo, e ad alcuni amici. E poi Gaetano. Se penso ai Balcani, penso al colonnello Bernacca, quando nelle previsioni meteo diceva aria fredda proveniente dai Balcani. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, il programma invece è Voi siete qui, mezz'ora al giorno in cui raccontiamo storie, ogni giorno una storia diversa, da lunedì al venerdì, tutti i giorni alle 16 e poi in podcast, ovviamente. La storia di oggi ce l'ha mandata Mirko, che vive in Finlandia. Ha una storia interessante, Mirko, state a sentirla. Vive in Finlandia, si è sposato là e lavora là, ovviamente, da un bel po' di tempo. Tanti anni fa però, esattamente 10 anni fa, era in giro con degli amici per cercare di aiutare. Doveva essere in quell'età in cui hai la sensazione che hai bisogno di fare qualcosa per aiutare qualcuno, e quindi è come se cercassi qualcuno da aiutare. Loro erano andati nei Balcani, erano in Bosnia e avevano proprio cercato il modo migliore per provare ad aiutare qualcuno. Lui dice forse non ci sono neanche riusciti alla fine, però qualcosa l'hanno fatto, si sono bevuti un caffè, una caffa, che credo sia un caffè, no? Nessuno lo sa. Vabbè, se tu qualcuno dovesse saperlo, 349-238-6666. Dicevo, a bersi qualcosa in compagnia. Se dico la parola Balcani, a voi cosa viene in mente? Raccontacelo sui profili Facebook del programma, voi siete qui Radio 24, sul profilo Twitter del programma, sul mio, che è semplicemente Matteo Caccia, oppure al 349-238-6666. Prima di cominciare il racconto di Mirko, però, lanciamo una sorta di richiesta, visto che non lo facciamo mai. Di solito noi chiediamo semplicemente una storia semplice, una storia che racconti qualcosa di voi, senza indicare nulla. Questa volta però, visto che tra un paio di settimane facciamo un mese intero in cui ogni giovedì, abbiamo deciso, Tiziano, vero? Non mercoledì, giovedì. Ogni giovedì, no, ormai siamo su di iniziative. Prima il mercoledì live con i musicisti, adesso dal 14 novembre fino al 15 di dicembre, ogni giovedì racconteremo la storia di un viaggio. Quindi, se avete un diario di viaggio, mi raccomando, una pagina, due. Un viaggio, come dire, se siete andati da Torino a Cologno Monzese, va bene, però ci piacerebbe un viaggio un pochettino più lontano. Ma soprattutto un viaggio che per voi sia stato interessante. Un viaggio che in qualche modo vi ha cambiato, in meglio, in peggio. Un viaggio che vi ha fatto capire delle cose, che vi ha fatto conoscere qualcosa o qualcuno. Voi siete qui, @radio24.it. Vi prego, non più di due pagine, altrimenti è molto complicato metterci le mani. Se avete un diario di 40 pagine, mettetecele voi le mani lì dentro. Tirate fuori quel pezzo di quel viaggio che vi rappresenta di più e che vi è servito di più. E la spedite a voi siete qui, @radio24.it. Torniamo indietro, stiamo a metà tra l'Italia e la Finlandia e andiamo nei Balcani. Finalmente entriamo. Dopo due giorni che passiamo e assediamo il campo, siamo riusciti ad entrare. È il maggio del 2003, siamo nei pressi di Bosanski Petravac, Bosnia occidentale, un punto sperduto che unisce Biac e Kliu. Siamo in viaggio da alcuni giorni, ogni cosa programmata in modo da fare rientrare tutto, visita alle scuole, ai direttori, incontro con i sindaci e con gli assessori, tutto nel brevissimo periodo di 4 giorni, i 4 che ci eravamo prefissati, Milano, Bosnia e ritorno, tutto incluso. Come dire, una fattibilità lampo da manuale. Eppure quel gigantesco campo profughi dell'Agenzia ONU per i rifugiati ci si era conficcata in testa fin dall'estate precedente. Dovevamo entrare e capire chi erano e chi lo gestiva, Eravamo convinti che se fossimo riusciti a prendere qualche contatto durante l'estate successiva, sarebbe stato possibile passare un po' di tempo insieme a giocare con le centinaia di bambini che vedevamo dal finestrino della macchina. Perciò parcheggiamo vicini all'entrata e muniti di caramelle, ci approcciamo all'ingresso. Ricordate il detto «non prendete caramelle dagli sconosciuti»? Beh, quel giorno vestivamo i panni dello sconosciuto e la cosa mi fece al tempo ridere e rabbrividire. Iniziamo a divertirci, a fare i Babbi Natale e finalmente rompiamo il ghiaccio. Eravamo in 4 o 5 ed eravamo dei volontari di una ONG italiana che preparava campi estivi di animazione per bambini in Bosnia e in quel momento eravamo a fare la fattibilità per l'estate. I bimbi iniziano a parlare e ci fanno entrare nel campo. Presto siamo circondati anche da ragazzi più grandi e qualche adulto della nostra età. Chiacchierando scopriamo che il campo dà asilo a più di 400 persone, tutti profughi Ashkalia, rom kosovari, scappati perché in sintesi davano fastidio più o meno a tutti. Chiediamo di parlare con il direttore, che sembrerebbe essere un bosniaco del luogo. Ora non ricordo molto bene la discussione con il direttore, quel poco che ricordo è di un uomo tutt'altro che disponibile sia a parlare con noi sia ad essere di riferimento per qualche attività durante l'estate. Frustrati e arrabbiati, come spesso succedeva quando cazzavamo con la burocrazia corrotta e viscida di quel luogo, ci approcciamo all'uscita, quando un ragazzo più o meno della nostra età ci invita nella sua casa baracca a parlare e a bere qualcosa. Stupiti e un po' imbarazzati lo seguiamo. Si chiama Musli, sua moglie Fikrie e hanno due figli. Ci racconta della terribile esperienza di profugo rom kosovaro in Bosnia e lo fa con il sorriso sulla bocca, come se ci fosse di peggio. E c'è di peggio. Sopravvivere a 20 anni con due figli a carico con poco più di 7 euro al mese. Noi non potevamo aiutarli in nessun modo, lo sapevamo benissimo. Quattro ragazzi italiani non possono fare niente di più che ascoltare in silenzio. Non c'era nessun motivo per essere lì, oltre a bere una caffa in compagnia come vecchi amici. Con il sorriso sulla bocca ascoltammo le storie della figlia più grande, che grazie ad un'associazione spagnola aveva passato 10 giorni in Spagna, mentre cerco di bere meno succo che posso, senza sembrare sgarbato. No, il campo era un insieme di strutture prefabbricate e gli spazi comuni erano sostanzialmente degli spazi all'aperto dove non c'erano i prefabbricati, però era un insieme di prefabbricati all'interno dei quali vivevano i profughi. Parecchio grande, ma non così tanto come uno potrebbe pensare per 400 persone. Erano molto stipati, diciamo, erano molto costretti in piccoli spazi. Mentre parliamo, gioco con il più piccolo. Avrà avuto qualche mese, aveva un incredibile ed intenso odore di latte che mi rimase impresso nella mente, fino ad oggi. Esattamente 10 anni dopo, mi ritrovo con mio figlio di soli 2 mesi in braccio allo stesso intenso odore di latte di quel piccolo bambino a Ashkalia. Ora sono con lui dall'altra parte dell'Europa, nella fredda primavera finnica. La Bosnia, i Balcani sono lontani, nel tempo e nello spazio. Ripenso intensamente a quel momento al campo profughi. Mi chiedo dove siano ora tutti loro. Mi chiedo se Musli sia riuscito a valicare a piedi il confine tra Slovenia e Italia, come ci aveva confessato di voler fare. Ma specialmente mi chiedo quanto di lui sia ancora nell'uomo di ora. Metto a letto mio figlio e mi rendo conto che ora non posso fare altro che raccontare a lui questa storia. E così ho fatto, anche se ovviamente si è guardato bene da rimanere sveglio. I punti caldi del pianeta. Usiamo questo modo per definire quelle zone del mondo dove si concentra un alto tasso di pericolo. I punti caldi possono riscaldarsi, deflagrare senza preavviso, oppure possono essere sempre caldi. Punti che non prendono mai una pausa o una rinfrescata. Dei secondi fa parte sicuramente Israele, la striscia di Gaza, il Medio Oriente in generale. Dei primi la ex Jugoslavia, l'Irlanda del Nord e alcuni stati africani. È grazie a una paziente e spontanea presenza di persone come Mirko nei punti caldi del pianeta che qualche volta le cose un po' migliorano. Non parlo delle conseguenze politiche, parlo della qualità della vita di quelli che in un punto caldo ci vivono da sempre. Non tutti siamo fatti per quel tipo di lavoro. Te lo devi scegliere e non lo puoi fare per calcolo, per interesse. È un paradosso, ma sono convinto che si possa diventare quasi dipendenti da un lavoro come questo. Quando ci si trova immersi in un'esperienza così totalizzante, il ritorno alla normalità può risultare più complicato di dover affrontare tutti i giorni situazioni particolari. Però a me, più che allo stress da ritorno dalla trincea, piace pensare a queste persone secondo la teoria delle pantofole del pirata. Sapete qual è? Il pirata, nell'immaginario collettivo, solca i mari, vive sempre in mezzo ai pericoli, ha un pappagallo su una spalla, puzza di rum e ovviamente non porta le pantofole. Pantofole e pirati nell'immaginario collettivo non vanno d'accordo, ma non è detto che l'immaginario collettivo corrisponda fedelmente alla realtà. La mia amica Alessandra è di Novara. Dal 2008 vive sul confine tra Georgia, Russia e Ossetia del Sud. È membro di una missione delle Nazioni Unite per contribuire alla stabilità della Georgia e delle altre regioni circostanti. Dopo la guerra del 2008, le Nazioni Unite controllano che sul confine nessuno si riarmi, sostanzialmente. Appena arrivata là, sul confine, le hanno insegnato a guidare un mezzo blindato, le hanno consegnato un giubbotto antiproiettile e le hanno consigliato di usarlo, sempre, di giorno e di notte, almeno per i primi tempi. Ora ha una casa sua, ma per i primi anni ha dormito in una tenda militare. L'Ale è un'appassionata di zone roventi, anche se noi non abbiamo mai capito il perché. Anche se quella per lei ormai è una zona tiepida, in realtà. Ha iniziato nel 2000, aveva poco più di 20 anni. Accompagnava un signore ucraino a liberare le prostitute dell'est dai loro papponi lungo tutta la via Emilia. Lei le avvicinava, parlava la lingua, le conosceva e poi teneva il motore su di giri del furgone per scappare. Nel 2002 Ale era a Mosca, fuori dal teatro Dubrovka, quando all'interno i terroristi ceceni tenevano sequestrati gli spettatori e poi Putin dava l'ordine di intervenire col gas nervino. Nel 2004 lei era a Beslan, subito dopo la strage dentro la scuola. E l'anno successivo lo ha passato tra Grozny, in Cecenia, Vladikavkaz, in Ossetia del Nord, e l'Ingushezia. Ecco, questa è l'Alessandra che ha fatto delle scelte estreme per la sua vita. Ma l'Ale che conosco io, che conosciamo noi amici, si nasconde le mani, perché le sudano talmente tanto che, giuro, l'ho visto con i miei occhi, gocciola. L'Ale che conosco io non riesce a guidare un'utilitaria a Novara, perché c'è troppo traffico. L'Ale che conosco io, per decidere se uscire a mangiare oppure mangiare a casa, passa una giornata al telefono e, se glielo fai notare, ti guarda con la faccia un po' piegata, con l'espressione da vittima. Il giorno del colloquio al Ministero degli Esteri, uno di noi l'ha dovuta accompagnare davanti alla sbarra della Farnesina e spingercela forza dentro. Lei è una piratessa che solca i mari più impervi e che si perde in un bicchiere d'acqua. L'Ale è l'anello di congiunzione tra l'uomo e l'eroe. L'eroe che ci emoziona è quello che ha un punto debole, che lo accomuna a noi tutti uomini imperfetti. Il tallone d'Achille, appunto. Il tallone d'Achille che sta lì a indicarci che anche i pirati, qualche volta, portano le pantofole. For these fingered face are the tuners. C'è tutta la famiglia Rossi nella foto che ci ha mandato Mirko e che trovate sul nostro sito, come sempre alla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24. Tutta la famiglia, anzi direi la neofamiglia, adesso ci faremo spiegare meglio da lui il perché. C'è lui che ha una bella boccia pelata, degli occhiali da vista, tiene un braccio sotto la testa della sua compagna o di sua moglie, che a sua volta tiene in braccio un bambino minuscolo, grosso così. Pronto Mirko? Ciao, il Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. È la neofamiglia quella della foto, giusto? Esatto, esatto. A quando risale quella foto lì? 13 marzo 2013. Ah, quindi il bimbo è nato da pochissimo. Quanti mesi ha? Sei? Sette. Sette mesi, scusami. E si chiama esattamente? Vuoi sapere tutto il nome o basta il primo? Dimmeli tutti. Allora, si chiama Gilmarco, sì. Stocchi, Cabrita, Rossi, Govesci. E per quale motivo? Perdonami, la domanda sorge spontanea di per sé. No, la mia compagna è portoghese e abbiamo deciso di dare tutti i cognomi dei nostri genitori al nostro figlio, che si può ricordare da dove proviene. Ricomponiamo un attimo i pezzi, perché tu nella storia ci racconti di un'avventura in Bosnia, esattamente, di un viaggio in Bosnia, in un campo profughi, e la storia insomma l'hai raccontata in maniera molto chiara. Però i pezzi sono che tu adesso ti trovi in Belgio, giusto? Sì, esatto. Esattamente dove? A Ghent, che è leggermente sopra Bruxelles. Ok, in realtà tu però vivi ad Helsinki. Lavoro alla facoltà di veterinaria ad Helsinki e adesso sto lavorando qui alla facoltà di veterinaria di Ghent per qualche mese. Da quanto sei ad Helsinki? 6 anni. Ah, insomma, sei andato via. Quanti anni hai, Mirko, me lo ricordi? Quanti anni ho? 36. 36, quindi sei andato via dall'Italia a 30 anni o sei andato via prima? Beh, sono andato via fisso dall'Italia a 30 anni, prima viaggiavo spesso, specialmente nei Balcani col progetto Terra e Libertà, però di solito diciamo che la mia vita fuori dall'Italia è iniziata 6 anni fa. Come hai deciso di andare ad Helsinki? Come ci si arriva ad Helsinki? Un insieme di fattori, più che altro conoscenze, avevo un contatto con l'Università di Helsinki, ho sfruttato il contatto e mi sono ritrovato lì. Volerlo o non volerlo, per 6 anni mi sa ancora per di più. Quanto pensi di fermarti ancora? Boh, forse per sempre, non si sa. E come si vive, come si vive ad Helsinki? Nel freddo, nel buio, l'inverno, nel sole, l'estate, ma si vive molto bene. È un posto dove l'ho riqualificato moltissimo negli ultimi 2 o 3 anni. All'inizio è stato molto difficile, ma negli ultimi 2 o 3 anni è stato un posto che mi ha donato molto, e specialmente molto la mia famiglia, perché è il miglior posto d'Europa dove avere un bambino, quello di sicuro. Perché? Perché l'assistenza è incredibile, l'assistenza non solo medica ma sociale, il fatto di poter essere tranquillamente libero, di non avere un'automobile, di poter raggiungere qualsiasi luogo della città, pur avendo una carrozzina con bambini 7 mesi dentro. E questo è già stato un piccolo esempio. Poi è che è proprio... L'intera società è predisposta e ti invoglia ad avere figli anche se hai un lavoro precario, anche se sei uno studente e anche se sei uno straniero. Ed è facile fare amicizia ad Helsinki oppure ci si trova tra italiani? Oddio, tu hai una compagna o moglie, scusami? Compagna, e lei è portoghese, quindi magari anche ci si incontra con i portoghesi. Cioè, come sono i finlandesi? Complicati, però fantastici da un certo punto di vista. Da quale punto di vista? Sono persone gentilissime, solo che sono talmente chiuse che prima di riuscire a sfondare il muro ci vuole tanto, tanta pazienza. Però tu... quando si sfonda poi sono amici per tutta la sua vita. Un po' come i sardi, si dice sempre come così, sardi. Un po' i sardi pugliesi, guarda, fanno fatica a darti l'amicizia però. Mirko, di dove sei tu? Sei del nord Italia, giusto? Sono di Forlì. Sei romagnolo. Romagnolo, sì. E non ti manca quella parte lì dell'Italia, che so, l'aspetto umano... paesaggistico di Forlì? Sì e no, sì, da un certo punto di vista no, perché ormai abbiamo proprio staccato anche molto la relazione con... cioè, per riuscire a star bene fuori bisogna anche cercare di smettere di avere voglia di tornare dove si è partiti, sennò non ci si esce più. Però poi la radio ascolti, insomma, la radio italiana? Ascolto la radio italiana, sì. Cosa ti fai? Ti fai un tuo speciale podcast di varie radio italiane o ascolti solo Radio 24 e sai qual è la risposta giusta da dare? Ascolto solo Radio 24. Mirko, senti, ti ringrazio molto per la storia che ci hai raccontato, per queste due storie, per quella nei Balcani e per questo pezzo d'Italia che ormai è fuori, ma comunque rimane sempre Italia, anche per un pezzo del nome di tuo figlio. Ti auguro un sacco di fortuna e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, anche a te. Ciao Mirko, buona giornata. Ciao. Sono le 16.29, quasi 30, prima di chiudere lasciare la linea ed il microfono a Oscar Giannino, ringrazio Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Mauro Pescio. Se fate il ponte, godetevelo, ascoltatevi il programma. Se lavorate, godetevelo e ascoltatevi il programma. Se non fate in tempo ad ascoltarlo, scaricatevi i podcast e mandate i racconti. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Mirko, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Isabella, vivo a Lesa, la storia di domani è la mia e parla della nascita dei miei 2 fratelli gemelli. Questa è la mia storia e io sono qui.